Sombra. Sombra. Farfalle gialle ed erbe acerbe, crepitio di cicale nell'ava che affanna. Fretta furia, frasca fratta frinisce cicaleccio e frizzi di frivolo fringuello in fronte.